America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, questa sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlerà al Congresso riunito in seduta plenaria. È esattamente l'equivalente di un discorso sullo Stato dell'Unione, magari formalmente non lo è, perché un presidente per poter fare un discorso sullo Stato dell'Unione deve essere in carica per almeno un anno, ma di fatto è in questo periodo che il discorso viene pronunciato, riguarda le prospettive anche di bilancio. È possibile che il giorno dopo ci sia la discussione del bilancio, quindi da un punto di vista, diciamo così, pratico, è il debutto di Donald Trump, appena poco più di un mese dal suo insediamento alla Casa Bianca, vi dicevo, il debutto nel contesto politico del Campidoglio e nel suo dialogo sia con gli esponenti del suo partito che con l'opposizione, ma attraverso di loro, all'intero paese. Il discorso sarà solenne e sarà trasmesso in diretta da tutte le principali reti televisive americane. Ci sono alcune incognite, naturalmente. Come si comporterà Donald Trump? Sarà aggressivo come è stato, per esempio, durante il discorso per l'inaugurazione? Ho notato che negli ultimi tempi Trump ha cercato di ammorbidire il tono nei confronti di coloro che lavorano nella politica. Per esempio, si è congratulato enormemente con il Partito Democratico per aver scelto Perez come presidente del partito. Ha ospitato appena pochi giorni fa alla Casa Bianca una cena in onore di tutti i governatori. Sono arrivati 46 governatori, dunque molti governatori democratici, e l'atmosfera è stata di reciproco rispetto. Non ci sono state delle sbavature come quelle che osserviamo nel contesto delle dichiarazioni o dei tweet di Donald Trump quando, per esempio, vuole attaccare, per dire, la stampa, il nemico pubblico numero uno, dice, del paese e naturalmente dello stesso Donald. Chi è che ispira Donald Trump a prendere questa posizione? Beh, quella che è considerata un po' l'anima nera dell'amministrazione, Stephen Bannon. The third broadly line of work is what is deconstruction of the administrative state. And if you look at these cabinet appointees, they were selected for a reason, and that is the deconstruction, the way... Ecco, avete sentito Steve Bannon. Bannon dice, al primo posto dell'agenda del presidente c'è lo smantellamento dell'attuale sistema di amministrazione. Il sistema di tasse, regole, accordi commerciali e i membri del suo gabinetto sono stati scelti proprio per raggiungere questo obiettivo. Ecco, la domanda che, devo dire, tutti si fanno oggi in attesa di questo discorso è, ma ci sarà da parte di Trump anche l'annuncio di questo smantellamento dell'apparato amministrativo dello Stato? Non lo sappiamo, è ovvio, sappiamo che vuole modificare le tasse, vuole modificare le regole, vuole modificare gli accordi commerciali, però c'è qualche cosa di più nello smantellamento dell'apparato amministrativo, come lo chiama Stephen Bannon, cioè che nei decenni si è formata una classe di burocrati che priva gli americani dei loro diritti democratici in quanto esercita un potere autonomo ormai radicato in funzione delle esigenze delle grandi burocrazie capitalistiche, delle grandi multinazionali, delle grandi banche. Dunque c'è un sistema su un livello superiore che ignora quelle che sono le esigenze della gente nel giorno per giorno. E dunque, come potete capire, questo va ben al di là di una semplice riduzione delle tasse, di cambiare certe regole oppure di cercare di aggirare, questo magari lo affrontiamo dopo, ma comunque di aggirare alcune delle regole commerciali imposte dal WTO. Ci si chiede come sarà questo discorso di Trump. Dal punto di vista della forma, io credo che cercherà di scuotere, di sorprendere, come ha fatto durante il discorso per l'inaugurazione. E perché? Ma perché ha davanti a sé l'audience del paese. Ci saranno 80 milioni di americani che lo ascoltano, e di questi 80 milioni possiamo essere certi che almeno una sessantina sono suoi fedeli sostenitori, e dunque deve dimostrare loro che sta mantenendo le sue promesse elettorali fino in fondo. Quali sono i due punti chiave, secondo me, che affronterà questa sera Donald Trump? Sentiamo. This defense spending increase will be offset and paid for by finding greater savings and efficiencies across the federal government. We're going to do more with less and make the government lean and accountable to the people. Ecco, il primo riguarda l'aumento di 54 miliardi di dollari in spese per la difesa. Stiamo parlando di quasi un 10% di aumento. La seconda riguarderà la promessa del fair trade, cioè di un commercio equo. Però sono questi due punti che ci riguardano più direttamente. Perché? Beh, prendiamo le spese militari. Nella dichiarazione che ho fatto ascoltare, Trump dice l'aumento della spesa per la difesa sarà controbilanciato da un taglio dei costi e una maggiore efficienza del governo federale. Quindi torniamo sempre al punto originario. Faremo di più, spenderemo di meno, faremo in modo che il governo funzioni meglio. Però dal punto di vista della spesa militare significa aumentare la spesa militare al forse 3-9% del PIL e dunque potrà rafforzare questa sua iniziativa l'insistente richiesta con cui continua a rivolgersi agli alleati della NATO per aumentare le loro quote contributive alla spesa militare al minimo del 2% del PIL concordato al vertice del Galles del 2014. L'Italia, per esempio, adesso è a circa l'1,1% del PIL, quindi abbiamo molta strada da fare. Ecco, torniamo al commercio. Non è detto che Trump parta all'attacco annunciando di voler aggirare le regole della WTO, della World Trade Organization, l'Organizzazione per il Commercio Mondiale, però, e di questo a Washington se ne parla molto, l'ipotesi di imporre delle tariffe unilaterali, non so, per esempio contro la Cina, approfittando di errori in quella capillare rete di regole della WTO, secondo quel che ci risulta è ormai in una fase esplorativa piuttosto avanzata. Dunque, se non se ne parlerà nel dettaglio domani, beh, il paravento è commercio equo. Dietro commercio equo significa cercare di aggirare la WTO, cosa questa che non conviene a nessuno e credo che non convenga neanche all'America, perché questo significa impoverire, attaccare un'organizzazione come la WTO che gli USA hanno costruito a fatica. Io ricordo quando cominciarono i primi negoziati dell'Uruguay Round per raggiungere questo obiettivo. E a fatica ci si è arrivati, perché doveva essere il coronamento degli obiettivi di governance multilaterale che gli Stati Uniti volevano cercare di strutturare e organizzare a livello mondiale. Questo non porterà dei vantaggi se non elettorali, la gente dirà bravo, bravo Donald, stai mantenendo le tue promesse, ma c'è un rischio, sì è vero, mantiene la promessa elettorale, ma c'è un rischio per il sistema paese. Perché? Beh, perché anche gli altri presto potranno fare esattamente lo stesso e nel momento in cui non ci sono più regole perché ognuno cerca di muoversi come gli pare, beh, il risultato è il caos, cosa che credo non interessi a nessuno, neppure a Trump. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, partono i viaggi spaziali turistici. Elon Musk, fondatore tra l'altro di Tesla e SpaceX, hanno annunciato che nel 2018 due privati cittadini potranno essere mandati in orbita attorno alla Luna. Non ci sarà lo sbarco sulla Luna, però è un bel andare fino alla Luna e ritorno. Le due persone sono già state identificate, sono anonime, non possiamo sapere ancora chi sono, neppure sappiamo quanto pagheranno per questa emozione, devo dire alquanto rischiosetta. E dunque, visto che si parla di flying to the moon, di andare sulla Luna, di Frank Sinatra, Flying Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Da New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!